segue ancora. E giorno e notte pensa solo a te. Dalla sua voce sensuale fa aumentare il basso. E vabbè. Sono rossa come un peperone. La domanda è... Adesso mi sono affaticato per l'emozione. Si però. Sente. Che crede ancora che tu pensi a me. Perché è emozionato Giuseppe, quindi un po' il suo cuore batte, già preoccupate. Batte per cuore denari. Tornerai. Presidente, io ormai vivo con Deborah, eh. La donna di cuore si sta trasformando in donna di denari. La verità. E forse capirà. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Maramau, perché sei morto? Pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto. Allora, lasciamo da parte il coro delle micine e parliamo invece di insalate. In questi giorni bollenti, una bella insalata fresca è proprio quello che ci vuole. Ci sono anche quelle già lavate, io le sciacquo sempre, in 448 sono pronte e via, non se ne parla più. Ma noi invece ne parliamo oggi con un grande amico di Cuore Denari, il dottor Attilio Speciani, allergologo, immunologo clinico a Milano e consulente scientifico del nostro Cuore Denari Expo, il nostro reality nato proprio con l'obiettivo di tradurre la filosofia di Expo in opportunità di cambiamento. Potete ancora andare a vedere tutti i profili, 8, e anche le ricette dei nostri esperti e i consigli dei nostri medici sulle pagine dedicate a Cuore Denari Expo. È stata una bella esperienza. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie dell'amicizia, è bella l'esperienza, direi che può vero? Essere. Sì, va riletta, ogni tanto ripasso anch'io a vederla. Bravo. Allora, nella seconda parte di Cuore Denari invece parliamo di giovani e di giovanissimi che anche in questa stagione sono alle prese con la gestione del denaro e sappiamo quanto sia importante parlarne, affrontare questi aspetti in famiglia. In particolare iniziate a raccontarci al nostro numero verde se avete consigliato ai vostri figli di trovare un lavoretto estivo per guadagnare qualcosa, com'è andata, che cosa hanno fatto, che cosa faranno in queste settimane. Parleremo anche di quelle famiglie che nel corso dell'estate dovranno pagare qualche ripetizione perché è rimasta qualche materia da recuperare a settembre. Vi ritrovate in questa esperienza 800 24 00 24. Allora, l'avete sentito qua in studio con me un amico di Cuore Denari, il dottor Attilio Speciali, e ci sediamo a tavola, dottor Speciali, insieme a lei per fare qualche riflessione a voce alta sulla nostra dieta estiva. Naturalmente in questo periodo dell'anno diamo la preferenza dei piatti freschi e veloci che non richiedono cotture lunghe, preparazioni particolarmente complesse, insalata, prosciutto e melone, mozzarella e pomodoro, oppure al posto del pranzo una bella macedonia congelato con yogurt, alla sera che c'è di meglio una bella pizza, no? Per non mettersi ai fornelli. Ma dottor Speciani, fresco non sempre fa rima con leggero, anche dal punto di vista calorico, e ogni anno cadiamo in questo tranello. E poi tra poco partiremo per le vacanze, lì le occasioni naturalmente per fare degli strappi non mancheranno. Allora oggi facciamo questo gioco, proviamo a descrivere un po' la nostra dieta estiva con un aggettivo: leggera, varia, monotona, pronta, ricca, povera. Che dice dottor Speciani? Potrebbe essere una valutazione, sì, no? Una prima valutazione corretta. Poi potremo individuare il piatto o i piatti che compaiono di più sulle nostre tavole in questo periodo. I primi caldi, i fuochi si spengono e quindi insalatone, oppure mozzarella e pomodoro, panzanelle, macedonie, insalate di riso di pasta, minestroni posati, buonissimi. Terza e ultima domanda: in in estate solitamente il vostro peso aumenta o diminuisce, oppure nonostante le vacanze riesce a mantenersi stabile? Dottor Speciani, vuole aggiungere qualche altro spuntino? Spuntino, mi piace, è riuscito bene. Io direi così, due spunti che poi riprendiamo anche sul piano generale. Una è una dieta utile, potrebbe essere una ricca di sodio, ad esempio con prosciutto, pane, cracker, formaggi e simili, che in genere gonfia solo le gambe, oppure ricca di potassio, che in questo periodo tutti sono stremati, stanchissimi, e dicono mangiamo del potassio, presto sì, e allora ecco che le patate al posto del pane, i cereali integrali, ecco le albicocche che sono fantastiche, sono degli apportatori sono di potassio. Ultime, sono le ultime, lo so, però invece le zucchine ce ne sono ancora. Ho visto anche un bellissimo articolo su Eurosalus, a proposito di Eurosalus, oggi il dottor Speciani ci ha portato un bel blocchetto di quei libretti che qua vanno a ruba, che divoriamo, controllare il peso attivando il metabolismo. Naturalmente vogliamo farli arrivare a casa dei nostri ascoltatori, che chiameranno all'800 24 00 24, ma dottor Speciani dovranno un po' guadagnarsi questo libricino. A quale domanda potrebbero rispondere? Vediamo. Oppure come si potrebbero mettere in gioco? Basta telefonarci e superare la barriera rosa? Dai, sì, ne abbiamo diversi. Allora, oggi è gentile. Dai, 800 24 00 24, chiamate, naturalmente parliamo di come attivare il metabolismo. Abbiamo iniziato dall'insalata, vogliamo anche capire se diventa un po' il vostro piatto forte dell'estate, come la condite, come la combinate, perché diventano delle insalate davvero molto rinforzate, non sempre equilibrate, perché un po' perché noi donne siamo, non vogliamo buttare via nulla, per cui sommiamo, no? Quindi il mais, il tonno, e poi mettiamo magari qualche legume, poi il pomodoro, diventano dei pasti super calorici. Quindi cerchiamo di capire un po' come si combina davvero un'insalata che diventi un po' un piatto unico. Dottor Speciani, lei ci aiuterà? Assolutamente, do subito un'immagine che quella, perché non è che ci sia un cibo cattivo, un'insalata perfida eccetera, piuttosto che, però quando alla fine il condimento dell'insalata, mi è venuto un termine, sablocca tutto insieme, come dire, diventa una specie di blocco unico, perché c'è troppo olio, perché ci sono troppe sostanze grasse eccetera, ecco che forse quella non è l'insalata che stiamo pensando, quella diventa una somma di calorie eccessive. Ma perché, come mai, ma perché in cucina non ci entro mai? Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Allora, dottor Speciani, io non so come se la cavi lei in cucina, ma da lei ho bisogno che ci spieghi un po' la teoria. Ci dica come si compone un'insalata estiva, ricca, che diventi un po' un monopiatto, che sia al tempo stesso leggero e nutriente, e che non ci faccia perdere troppo tempo. Allora, intanto mi piace pensare al concetto di colore. Prima, tra le varie aggettivi, c'era anche l'ipotesi della colorata e cruda, che non solo varia, per cui quando oggi noi possiamo gestire i colori, sappiamo che abbiamo diversi nutrienti, diverse vitamine, diversi sali minerali. Poi mi piaceva toccare un temino simpatico legato proprio alla ariosità dell'insalata, perché se l'insalata diventa un blocco unico mischiato di tonno, formaggio e olio, a quel punto evidentemente non stiamo mangiando l'insalata, stiamo mangiando delle altre cose, non una pazza. Inoltre mi piace toccarlo, perché molte persone arrivano con questa domanda, c'è questo mito dei cibi con con le calorie negative. Non esistono cibi con le calorie negative, però è vero ad esempio che un bel gambo di sedano, in realtà un sedano, 100 grammi di sedano sono 16 calorie, già solo per portarlo alla bocca, pulirlo e masticarlo, uno ne ha consumato 32, quindi diventa simpatico. Quindi se iniziamo a mettere dentro delle verdure, diciamo con un buon contenuto di fibra, quindi zucchine crude non bollite ad esempio, questo è uno degli elementi. Se io vado ad aggiungere ad un'insalata sostanze molto bollite, hanno perso le loro vitamine, hanno spesso disperso i loro minerali, mentre ad esempio il rispetto del crudo, e ho cito le zucchine affettate, dei rappannellini, cioè situazioni in cui cose ci sia croccanti, devono facciamo dare, andare la bocca, passiamo alla posata. Esatto, ma perché la masticazione è un mucchio di cose utili e positive. Poi la cosa importante è un bilanciamento effettivo con un giusto quantitativo di proteine, però non è che dobbiamo mettere dentro i würstelini, mangiamoli la sera, sono ricchi di sale, ci sono petti di pollo fatti al vapore o anche alla griglia, i residui della grigliata del giorno prima, ma non solo salsicce, bastano davvero la carne appena scottata da una parte o dall'altra, il pesce appena scottato da una parte o dall'altra, l'uovo sodo che viene aggiunto, iniziano a diventare delle proteine che bilanciano bene, restano con questa, usiamo questo termine, immaginiamoci che l'insalata deve essere ariosa, croccante, già solo questi termini ci guidano nella costituzione di qualche cosa che fa bene alla salute. Messaggio ricevuto. Allora, dottor Speciani ci ha dato la teoria, noi adesso vi chiediamo di darci le vostre ricette per capire se sono equilibrate per ogni ricetta data, e quindi se superate la barriera rosa e entrate in onda, il libro sul metabolismo che noi stiamo divorando, ce lo chiedono anche via mail, ci mandate per favore, perché c'è in questo libricino, lei ha dato davvero tanti consigli che noi oggi ripasseremo insieme ai nostri ascoltatori. Dottor Speciani, in realtà oggi l'insalata è un pretesto, perché io l'ho invitata per avere da lei alcune indicazioni per gustare l'estate proprio nel senso pieno del termine, senza inutili rinunce, anche perché non si può fare la mosca bianca, ma non vogliamo anche tornare a casa proprio tondi, perché ricominciare a lavorare a settembre sarà dura, se poi dobbiamo metterci anche a dieta, la sindrome del rientro, no, che diventa il tormentone di settembre, diventa veramente un incubo. Allora, dottor Speciani, lei ci ha spiegato che gli studi più recenti sul metabolismo hanno dimostrato che il nostro organismo non è solo sensibile alle calorie introdotte, ma ad una serie di altri fattori di cui oggi parleremo. Sono messaggi, sono segnali. Ecco, il primo è l'infiammazione, che ricordiamo, dottor Speciani? Allora, quando esiste una condizione di tipo infiammatorio, perché esistono delle reazioni al cibo, si producono delle sostanze, delle citochine. Una, ad esempio, che noi testiamo abitualmente, che è il BAFF, B-A-F-F, che si è scoperto mezzo recente, baffo. Mezzo baffo, no? Come l'idea, che in realtà determina insulinoresistenza, parola difficilissima, che però vuol dire che uno non metabolizza bene gli zuccheri e li trasforma facilmente in grasso. Ecco qua che se siamo meno infiammati, come si fa a non essere infiammati? Se uno conosce le proprie profilazioni alimentari, le proprie intolleranze, le proprie reattività, sa come fare. Se uno non lo sa, il concetto di varietà alimentare è la cosa più sana, più santa, perché uno riesce ad avere delle variazioni, quindi a non mangiare sempre le stesse cose. Sintomi dell'infiammazione che noi possiamo sentire e sintomi che possiamo vedere, facciamo una sorta di autodiagnosi. Ma, diciamo subito i due più semplici: quando uno ha il medico non ha riscontrato cose particolari, ma sistematicamente la colite, ad esempio, sappiamo che ha un'infiammazione intestinale. Oggi sappiamo che c'è una strettissima correlazione, ad esempio, sul rapporto con un eccesso di utilizzo di glutine piuttosto che utilizzo di determinati cereali. Quindi questo nasce, è un mio consiglio usuale, cambiamo la fonte di cereali. Se un giorno facciamo un'insalata con il couscous, che quindi è sempre frumento e glutine, il giorno dopo la facciamo col riso, il terzo giorno la facciamo col grano saraceno. Cioè impariamo anche a variare le fonti di cereali, e queste sono legate ai sintomi che uno può percepire. Le cose che si vedono sono le gambe gonfie, l'abbiamo detto mille volte, e quindi questo è uno dei segnali che ci induce a cercare un'azione di controllo. Un altro segnale per il nostro metabolismo è il rapporto tra diversi alimenti nello stesso piatto. Questo è un altro degli elementi importanti, e darò anche un micro suggerimento, perché c'è un ormoncino simpaticissimo che si chiama colecistochinina, CKK è la sua sigla, e che in realtà inibisce l'appetito. E come si fa a gestirlo? Ad esempio, adesso non è un consiglio che suggerisco, che do, però all'Oktoberfest i tedeschi preferiscono, prima di andare a iniziare a bere birra, si prendono un po' di panna, perché quando c'è una sostanza grassa che entra nell'organismo viene rallentato l'assorbimento, e in più viene inibito l'appetito. Questo aiuta i bevitori di birra a bere un po' meno e a compensare. Allora, noi cosa facciamo? Per la nostra estate trasformiamo questa cosa con magari un gamberetto pucciato in un goccio di maionese, e piuttosto che due mandorle che sono sanissime, o una noce che adesso è difficile trovare in giro, però giusto per mantenere l'abitudine, e queste, essendo sostanze un po' grasse e proteiche, ci rallentano un pochettino il tutto. E poi l'acqua da bere. Noi abbiamo un'azione specifica di ricerca dell'appetito, si stimola, e il centro dell'appetito è vicinissimo a quello della sete. Allora, se uno beve un bel bicchierone d'acqua, spesso ha un'azione di riduzione anche dell'appetito. Attenzione, anche l'orario per il metabolismo fa la differenza. Mi riferisco all'orario di assunzione del cibo. perché noi siamo un po' abituati a mangiare anche fuori pasto, o il nostro metabolismo risponde quando riceve dei segnali al momento giusto. Parleremo tra poco di prima colazione, che è un momento magico, nel primo pasto della giornata, e non a caso deve essere consumato in un orario preciso, ma di questo parleremo. L'orario di assunzione, che cosa, tradotto in consiglio pratico ed estivo, dottor Speciani, che cosa significa? Tradotto significa: mangiate effettivamente qualcosa quando vi svegliate, non fate spuntini volanti, perché anche questo è un dato importante. Durante questo tocco un altro ormone simpatico, la gente ride sempre, si chiama glucagone, quando lo segnalo, però si chiama così, non posso farci nulla, e inizia, scioglie il grasso, e però parte dopo 3 ore di digiuno relativo. Quindi le persone che continuano a smangiucchiare durante il giorno senza il glucagone non gluca. Allora, che dire anche dello stato emotivo? Lo sappiamo che le emozioni influenzano la fame, la sazietà, orientano anche le nostre scelte. Un classico, la voglia di dolce quando siamo un po' giù. Adesso sì, ci auguriamo che le vacanze ci riportino su, però diamo anche un'altra verità, perché se è vero che la parte emozionale induce la ricerca di zucchero, è vero che l'uso di zucchero induce poi l'abbattimento dell'umore, perché se io voglio bene a quelli che mangiano i dolci, quelli fatti bene con le farine integrali, gli zuccheri dentro. Ieri ho fatto una crostata. Mi viene in mente lo strudel, la crostata non buona. Non potete immaginare, con la farina integrale mi è venuta tutta a occhio, è venuta, non ce ne potrà essere un'altra perché non ho pesato nulla. Questa è una donna intuitiva, eh? Però ieri sera, insomma, ha avuto grande successo. Esatto, allora, queste cose sono fantastiche. In realtà una cosa di questo genere viene assorbita lentamente e non induce degli effetti di abbattimento dell'umore. La zuccheratura, la dolcificazione gratuita, che siano zuccheri artificiali, che siano zuccheri qualsiasi, per il caffè, per il tè, per la bevanda, in realtà induce, fa sparare una botta di iperglicemia che ti dà un senso di... Quindi bevi il caffè amaro se vuoi una vita dolce? Ma assolutamente mamma sì. Mia. Oh, ma allora guarda, abbiamo le ricette e le indicazioni dei nostri ascoltatori. Luciano ci chiama da Cosenza, Maria Luisa da Torino. 800 24 00 24 ci state scrivendo anche al 349 238 6666. Diamo spazio a tutti, iniziamo da Maria Luisa che ci chiama da Torino. Buongiorno, mi sente? Io la sento bene, Maria Luisa, benvenuta, grazie. Grazie, perché sono per strada, sto camminando in mezzo alla gente, mi hanno detto che la ricezione era un po' così così. Sì. Allora, la ringrazio per avermi chiamata. E? Volevo raccontare la mia insalata. Brava. Ecco, dunque, io probabilmente sbaglio, metto moltissima insalata foglie verdi, d'accordo, miste, le mescolo così, carote grattugiate, poi a me piace da morire l'avocado, quindi aggiungo l'avocado, gamberetti, noci e tonno. Quindi probabilmente tonno e gamberetti e avocado non vanno bene insieme. Questo dice Maria Luisa, che tra l'altro riceverà a casa Controllare il peso attivando il metabolismo del dottor Attilio Speciani. Il bilanciamento è perfetto. Se riesce in questa situazione a non avere la mappazza, come si diceva prima, cioè a mantenere il tessuto complessivo dell'insalata una volta che è condita ancora un po' aereo, direi che è fantastico. Non vedo, cioè l'avocado è un ottimo prodotto che così evita di aggiungere altri oli particolari. Gamberetti, noci e tonno ci stanno bene. È chiaro che se uno utilizza poi una gnocca di tonno enorme e buttando dentro una situazione che rende il tutto effettivamente un poco aereo, diventa difficile. L'avocado è un frutto molto particolare, perché contiene dei grassi, che sono però dei grassi buoni. Sono grassi buoni. Vegetali fantastici. Però tra l'altro devo dire che la scelta sai che io ho piantato il Simone dell'avocado? Dai, ed è cresciuto anche qua. Adesso vi metterò, se riesco a postarlo, chiederò aiuto naturalmente Esotta Scena. È nato qualcosa, è fantastico. Nata una piantina. Adesso la vediamo. Poi ve la posto. La seguiamo. Speriamo che sia una piantina di avocado. Luciano, buongiorno, da Cosenza. Sì, buongiorno. Buongiorno, un altro libretto del dottor Speciani che se ne va. Grazie. Volevo dire al dottore, io di solito uso le pere, le arance e ogni tanto ci metto pure qualche patata bollita fatta a pezzetti. Sì. Ottimo. Nell'insalatona generale, insieme a un po' di mais. era una cosa, cosa ne pensa il professore? Grazie Luciano. Allora il mais pum lo mettiamo sempre. Il va benissimo, nel senso che pere, arance, patate bollite, magari anche con la loro buccetta, così hanno un indice glicemico più basso e un pochino più al dente. Esatto. Lei mi ha insegnato. Esatto. Mancano un po' di proteine. Dai, da Cosenza abbiamo semi oleosi aggiuntibili, le mandorle piuttosto che le noci, tre gamberetti, cioè iniziamo ad avere, in una situazione in cui uno mangia solo insalata con frutta e verdura, sono solo carboidrati. Ma se io metto i ceci o metto le lenticchie? Ma buone, belle lenticchie tenute al dente apportano già delle proteine vegetali utili e importanti. Posso mettere anche quelle in scatola che le sciacquo? Senti, dai, ma facciamole... No, ma la domanda, risponda alla domanda lei, dottor Speciani, allora, che io ho già fatto la torta, la crostata con la farina integrale ieri. Piuttosto che niente, meglio piuttosto, come si dice a Milano. Però se allora, riusciamo a dare cibi freschi, meglio. Intanto Simona la saluta e le chiede se mangiare il cocomero prima di pranzare e cenare va bene. E se il suo libro si può avere per sua figlia, perché non può chiamare, naturalmente saluti, certo Simona lo mandiamo, e anche ad un'altra ascoltatrice che mi ha scritto al 349-238-6666 dicendomi che ha una situazione un po' complessa e che quindi magari il suo libro potrebbe aiutarlo. Lo segnaliamo ai diretti interessati e naturalmente anche in regia. Cocomero sì. Allora, e poi semini, io vi devo dare una ricetta che ho mangiato 3 giorni fa, fantastica, che era come fosse una insalata greca, solo che al posto del pomodoro c'era il cocomero, quindi cocomero più pezzettini di feta, olive e qualche semino aggiunto, condita con un po' d'olio, fantastica, devo dire un gusto che non credevo perché non l'avevo mai assaggiata, mi è piaciuta, è stata una ritrasformazione, tra l'altro per persone con problemi di reattività al nickel piuttosto che altro, quindi magari non posso mangiare il pomodoro, c'è comunque il bel rosso del cocomero, bello fresco, insieme a pezzettini di feta che si sgretolano un po' con l'acqua del cocomero, fantastica, la suggerisco, e quindi cocomero sì. Va bene, allora anche a lei do un libro, Controllare il peso attivando il metabolismo. Anche a me, sì, grazie. L'ha vinto. Allora, 800 24 00 24, lo sappiamo che uno dei segreti per attivare il metabolismo e soprattutto bruciare le calorie inutili è la prima colazione, di questo parleremo subito dopo aver ascoltato i mercati. Andiamo. Cuore e denari. Tornati insieme, vi ricordo che tra poco alle 11.45 ci collegheremo con Daniele Grassucci di scuola.net per la pagina di denari. In questi mesi di vacanza gli studenti hanno i loro pensieri anche relativamente agli eurini, ad esempio per le ripetizioni che hanno un costo, e poi soprattutto c'è la ricerca di un lavoretto estivo che può tornare utile anche per finanziare una piccola vacanza o perché no qualche serata in compagnia. Voi l'avete consigliate ai vostri figli? 800 24 00 24, ne parliamo tra poco. Eccoci qua, noi svegliamo il nostro metabolismo, continuiamo a mandargli dei segnali per dirgli di lavorare bene. Ci aiuta il dottor Attilio Speciani, allergologo, immunologo clinico a Milano e consulente scientifico del nostro Cuore Denari Expo. Dottor Speciani, lei ha suggerito la sua ricetta con anguria. Bellissima, sì. Mi piace. Soddisfatto, vero? Proprio. Anche i nostri ascoltatori ci raccontano le loro ricette di insalatone, tra poco parleremo anche di prima colazione, che è proprio un momento magico della giornata. Attenzione, per funzionare bene, il dottor Speciani ci ha spiegato che deve avere due caratteristiche. Il dottor Speciani le ricorderà tra poco. Intanto, se volete così raccontarci anche come iniziate la mattina, che caratteristiche ha la vostra prima colazione. Allora, la prima è il timing, il momento in cui viene fatta, e deve essere fatta entro un'oretta circa dal risveglio, a meno che uno non vada a fare attività fisica, in quel caso c'è già un risveglio metabolico, allora può essere fatta dopo l'attività fisica. Quindi non è che uno può fare colazione qua dopo 2 ore e mezza che è andato già in ufficio a lavorare o a vedere qualche cosa e poi fa colazione. Quindi entro un'ora. Entro un'oretta, diciamo. E poi la seconda caratteristica? La seconda è che deve essere correttamente bilanciata tra proteine, carboidrati, frutta e verdura. Perché? Questo è un dato importante. Abbiamo proprio degli elementi di rilievo. Intanto ve lo dico perché quando si fa una colazione così l'appetito si riduce, cioè uno riduce poi la ricerca del mangiare del cibo durante la giornata. Ma c'è un bellissimo studio fatto su un gruppo, una popolazione diabetica, che rileva esattamente come il fatto di aver fatto una prima colazione con delle proteine correttamente bilanciate e inserite all'interno della propria colazione. Noi purtroppo in Italia siamo abbastanza abituati a fare colazioni solo dolci e solo a base di carboidrati, consente allo stesso persona diabetica, cioè nello studio che è stato fatto, di avere una riduzione della glicemia e degli innalzamenti glicemici anche nel corso della giornata. Quindi vuol dire che l'effetto che noi diamo con la prima colazione perdura lungo tutta la giornata, riusciamo a creare una interferenza positiva sugli ormoni, che non è una cosa da poco. Quindi se la facciamo entro un'ora al giorno, se mettiamo le proteine bilanciandole, noi evitiamo di ingrassare nel corso della giornata, perché non abbiamo fame, non ricorriamo agli spuntini, il nostro metabolismo lavora molto meglio e quindi assorbe, utilizza gli zuccheri in modo giusto, corretto, senza andare a creare, come avviene ad esempio nel diabetico, questo eccesso, questo accumulo legato ad uno squilibrio nella gestione della glicemia. Facciamo questa prova ad agosto, anche per chi è in vacanza, ma per chi anche continua a lavorare, i tempi nelle città sono più dilatati, quindi prendiamoci il tempo, proviamo a sperimentare questa formula, questa prima colazione entro un'ora, bilanciata con una quantità di proteine adeguata. Potete naturalmente andare a rivedere un po' le ricette. Ma adesso che facciamo sono anche un paio di esempi del nostro reality. Volevo intanto dare la linea a Barbara ed Elisabetta che ci aspettano, ci hanno chiamato all'800 24 00 24, continuate a chiamarci. Barbara, buongiorno da Arezzo. Città bellissima. Buongiorno. Buongiorno Barbara, buongiorno. Che fortuna che ha ad abitare ad Arezzo. Lo sai? Infatti è una bellissima città. È bellissima. Grazie. Va bene, allora, Barbara ci racconta una sua ricetta? Sì, io avevo chiamato per l'insalata di... Cioè, sento un po' di eco, Sì, ma noi la sentiamo abbastanza bene. Barbara, provi ad... Ok. Sì. Insalata verde con gamberetti, però ne avete già parlato prima. Sì. Quindi potrei trovare una cosa diversa. Sì. E una composizione che ci piace molto è di alici marinate con ricotta di bufala, e pomodorini, pachino per esempio, e melone. E quindi le proteine direi che sono ben rappresentate. Ben grazie rappresentate. Barbara, anche Barbara riceverà naturalmente il librino per controllare il peso attivando il metabolismo. Volevo chiederle una cosa. Nell'insalata, ad esempio, che ha suggerito Barbara, sì, ci sono fonti proteiche diverse. Possiamo mescolarle anche, cioè la ricotta per dire di bufala con, mi sembra di bufala, abbia detto, con le acciughe. O è meglio avere un'unica, quando le proteine le prendiamo da un'unica fonte, quindi o pesce o carne o latticini o uova o legumi, e non facciamo mescolamenti vari? Ah, ci sono diverse scuole. Intanto ci sono ad esempio delle tradizioni kosher della cucina ebraica che prevedono questo tipo di differenziazione, e tendenzialmente quando le persone hanno questo tipo di scelte io le rispetto e cerco poi di uniformare i menù alle singole richieste. Devo dire però dall'altra parte che sono molto favorevole a un'idea anche di mix. Mi viene in mente che l'uomo del paleolitico mangiava quello che trovava, che noi abbiamo questo tipo di soluzione possibile, quindi siamo abbastanza dal punto di vista evoluzionistico adattati a poter mangiare anche le cose insieme, anche quando alcuni dicono che ci siano un po' di conflitti interni. In più abbiamo questa capacità di miscelare che i nostri chef, che abbiamo visto in tutti questi mesi passati, ci hanno insegnato, in cui vogliamo togliere la possibilità di essere creativi, di fare No, ma certo. Io sono dell'idea che quando un sistema digestivo funziona e le persone sono sane, sono in grado, non dico di digerire anche i sassi, ma di far funzionare bene anche delle miscelazioni tra proteine di diversa origine e carboidrati di diversa origine, senza grossi problemi. Allora, andiamo ad Elisabetta che ci chiama da Milano. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Dunque, io ho 5 anni che mi è scoppiata la tiroide praticamente. Il mio metabolismo, da che funzionava, che potevo mangiare ogni cosa in qualsiasi ora, in qualsiasi momento, sono arrivata al punto di non poter mangiare quasi più nulla perché il mio metabolismo non funziona più. Perché la tiroide l'ha mandata in tilt. È la sua trasmissione oggi. Allora, e diamo sempre spesso la colpa a questa ghiandolina, che è responsabile di una serie di funzioni nel nostro organismo. Ma io voglio dire, quando parlo di attivazione degli ormoni, voglio ricordare quelli che ci ascoltano che la prima colazione fatta nelle modalità che abbiamo detto prima attiva un ormone che si chiama leptina, che è simpatico e interessante, che guarda caso serve poi per regolare tutti gli altri ormoni, ma invece ha una linea diretta, addirittura c'è una linea nervosa proprio destinata che, se si attiva con la leptina, va a stimolare la funzione della ghiandola tiroidea. Quindi è una delle prime cose che noi diciamo, cioè c'è un bellissimo articolo su Eurosalus, che è lettissimo peraltro, si dice: dimmi come mangi e ti dirò che tiroide hai, perché è vero che ci sono delle incapacità della tiroide di funzionare, poi però ci sono anche degli strumenti che possono aiutare, supportare anche nella terapia la ghiandola a funzionare al meglio. Quindi, tre consigli: prima colazione, bilanciamento, timing corretto, bilanciamento tra carboidrati, proteine, frutta e verdura nel modo giusto, e cercare di ridurre l'aspetto infiammatorio. Sono i tre cardini con cui spesso, in situazioni non patologiche conclamate, ma noi a volte riusciamo a rimettere, come dire, a dare quella mano in più alla tiroide per riprendere a funzionare in modo adeguato. Allora, volevo chiederle se per un'amica che mi ha scritto che sta mangiando una o due volte alla settimana il pranzo, sta pranzando con macedonia di frutta, cocomero, melone, pesche, noci, mandorle condite con yogurt. Faccio male? Ci scrive Silvana. Secondo me fa bene. Fa benissimo, direi che è fantastico. Perché fa bene? Perché ha bilanciato e ha aggiunto quelle noci e mandorle insieme allo yogurt e alla frutta. Di per sé è già abbastanza bilanciato, però se poi ci mangio insieme i carboidrati della frutta, ecco che in realtà ho bisogno di qualche proteina aggiuntiva. Dall'altra parte direi che la nostra amica fa benissimo. E quindi, allora, adesso vi voglio dare la ricetta di Cristiano, che secondo me ci ha dato una ricettina. Allora, trancio di ombrina su letto di insalatina condita con coriandolo, con l'acetina, no. Coriandolo, ginger, anguria tagliata a cubetti, cipolla di Tropea leggermente sfumata e ovviamente olio del Garda. Beh, direi fantastico. Tra l'altro, mi ha lasciato un po' a bocca aperta, perché lei ci ha dato quella lì del pomodoro, dell'anguria. Lui l'ha tracciata. Lui ha copiato palesemente l'anguria, l'ha inserita adesso dopo che io ho parlato e ha mandato. No, perché, però devo dire che quella, insomma, Cristiano, secondo me, l'ha battuta. Giorgio, buongiorno dalla provincia di Firenze. Buongiorno. Dunque, io volevo chiedere una cosa, in realtà non per me, ma per la mia compagna. Sono un medico e lei ha un problema di stipsi cronica che non riesco a risolvere. Ora, lei è in una fase in cui sta facendo dieta, quindi volevo sapere se c'è la possibilità di coordinare un aumento dell'attività metabolica assieme a questa situazione cronica di stipsi. Ma sì, la domanda è abbastanza complessa, devo dire, nel senso che sappiamo perfettamente che a volte questa difficoltà nell'evacuazione sono legate a fattori ampi. Io, proprio perché ieri sera ho avuto occasione in una conferenza pubblica di parlare di questo tema, e è vero che sovente, quando uno si mette anche a dieta, al di là della necessità di controllare acqua e fibre, questo vale per tutti, talvolta inizia a mangiare ripetitivamente certi tipi di alimenti che in realtà se generano un'infiammazione specifica. Noi ad esempio sappiamo fin dalla fine degli anni del secolo scorso, quindi è un articolo sul New England Journal of Medicine ancora del 98, che per esempio persone che hanno una reattività infiammatoria nei confronti dei latticini hanno, in un 50% dei casi, hanno addirittura fenomeni dieroici, e in un altro 50% dei casi dei fenomeni di rallentamento intestinale. Quindi un consiglio consiglio potrebbe essere proprio quello di andare a valutare se c'è una ripetitività di alcuni gruppi alimentari. Cioè, se uno sta, per dire, sto seguendo una dieta, quindi mangio sempre lo yogurt, oppure sempre una fetta biscottata, sempre, allora se ci sono dei cibi ripetuti, provare a cambiarli, perché spesso c'è una ipersensibilità alimentare di sotto che interferisce con questo tipo di aspetto. Andiamo come ultimissima telefonata prima di affrontare i temi di denari per i denari dei nostri ragazzi. Germano ci chiama da Bergamo. Buongiorno Germano. Buongiorno, buongiorno. Sono voi. Io voglio comunicare la mia colazione. Sì. Per vedere se sei in linea. Bravo, vada. Allora, io prendo una spremuta di limone con dell'acqua, un bicchiere d'acqua, e poi un'altra spremuta o di pompelmo o di arancia, dipende dalla stagione. Sì. Un caffè e uno yogurt con del muesli. Tutto qua. E io riesco ad arrivare fino a mezzogiorno. E lui tira fino a mezzogiorno. Se ci aggiunge quattro noci nel muesli, arriva fino alle 2:30. Perché è giusto. Lui però sta. Lo yogurt, abbiamo detto, è di per sé bilanciato come prodotto, ha dentro il giusto livello di carboidrati e il giusto livello di proteine. Se però ci aggiunge del muesli, aumenta il livello di carboidrati. Quindi magari un uovo sodo a fianco piuttosto che non mandorle o noci, ecco che rendiamo in pareggio, come dire, e a quel punto arriva tranquillo fino alle 3. Se per caso lo fermano. Sì, e soprattutto manda questi messaggi al metabolismo di andare un pochino veloce. Comunque il libro del dottor Speciani se lo prende anche Germano, per Paolo che ci chiede che lui non riesce proprio a fare colazione la mattina, ha qualche speranza di perdere peso, suggeriamo di provare a tenersi leggerino qualche sera. No che leggerino, ecco, io lo dico con molta durezza, dico a parte il fatto che ci sono adesso delle indicazioni, si sta scoprendo che esiste lo short fasting, cioè il digiuno breve di 15 ore, che potrebbe essere equivale alla vecchia indicazione salta la cena. Vai a letto senza cena, no? E che in realtà attiva fortemente la lipolisi. E per uno come Paolo, dire che finisce di mangiare a pranzo e poi salta la cena bevendo acqua abbondantemente, vedrai che al mattino si sveglia che è una famina leggera. Poi il secondo inizia a insigarlo, una fame. Il terzo giorno altro che fa una colazione. Paolo, ci provi, poi ci racconti. Dottor Speciani, noi ci rivedremo a settembre. Certo, e intanto salutiamo tutti. Intanto se i nostri ascoltatori vogliono scriverci, noi possiamo inviare le mail al dottor Speciani, a cui auguriamo delle ottime vacanze. È reciproco per tutti, è stato un bellissimo periodo passato insieme. Grazie, allora noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Preparatevi perché tra poco andiamo nella pagina, nello spazio di Denari. Cuore e denari. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. È vero, l'estate, soprattutto negli anni della scuola, sono davvero indimenticabili e non vorremmo che finissero mai. E così Daniele Grassucci, responsabile della comunicazione di scuola.net, bentornato. Ben trovata, sì, uno vorrebbe proprio che non finissero mai, tant'è che io ho trovato un modo di rimanere a scuola con la mia professione. È vero. Questo, sai che ci stavo pensando, tu rimani adolescente a vita, no, studente a vita. Sì, più o meno, sì, poi sulla maturità c'è proprio il dramma massimo, perché noi siamo costretti ogni anno a rifare l'esame di maturità, quindi una sorta di punizione dantesca, ecco, aiuti gli studenti a passare l'esame e quindi devi rifarlo ogni anno fino a che insomma non decidi di cambiare lavoro, ecco. Sì, e poi guarda che anche chi non aiuta gli studenti, ma la maturità se la ricorda bene, ci sono persone che se la sognano più volte nel corso dell'anno, ne abbiamo parlato anche in una puntata con Deborah Cuore Denari, insomma, sì, comunque... C'ero anch'io quella volta, avevamo parlato sempre, mi sembra dei contributi, non mi ricordo, però c'ero anch'io, me la ricordo questa cosa, me la ricordo molto bene, e ti confermo che è un dato vero, ci sono ecco almeno un 30% delle persone che se lo sognano dopo l'esame. Senti Daniele, noi oggi parliamo non solamente dei ragazzi che hanno passato la maturità, ma anche di quelli che stanno facendo le vacanze del liceo, no? E alcuni devono rimediare qualche materia a settembre e le famiglie si stanno organizzando, ma ci sono anche ragazzini che decidono di lavorare un po' per, no, tirare su qualche soldarello, per fare un po' di vacanze, per uscire una sera in più in compagnia degli amici. E voi avete monitorato un po' questa situazione? Assolutamente sì, dopo insomma, ti ricorderai le dichiarazioni del ministro Poletti che aveva proposto insomma di barattare un po' di vacanza con un apprendistato professionalizzando e con del lavoro, facendo l'esempio insomma di suo figlio che regolarmente si trova un lavoro estivo. Noi ci siamo detti, ma perché non cercare di capire quanti ragazzi effettivamente lavorano al di là di Poletti? Beh, quello che abbiamo scoperto è che non sono tantissimi, ma nemmeno pochi, sono circa 1 su 7 gli studenti appunto che impegnano l'estate in questo modo, e quindi insomma abbiamo cercato un po' di tratteggiare il ritratto del ragazzo, ecco, che piuttosto che studiare, perché appunto non ha avuto debiti per settembre, si mette a lavorare. Senti, ma di che lavoretti parliamo? Di poche ore, continuativi, full time, part time? Beh, in realtà parliamo innanzitutto di lavori stagionali, ecco, perché nel 37% dei casi, quindi insomma c'è una maggioranza relativa, sono lavori che durano per tutta la stagione per 3 mesi. Quindi sì, ecco, ragazzi che passano tutta l'estate a lavorare e coprono il fabbisogno degli stagionali, per cui tendono a essere dei lavori tendenzialmente superiori al part time, cioè uno su tre fa quasi un full time, quindi tra le 6 e le 8 ore, e uno su 4 lavora dalle 4 alle 6 ore, quindi più del 50% supera abbondantemente la soglia del part time, quindi in qualche modo possiamo dire che i ragazzi aiutano un po' a sostenere la richiesta di lavoro stagionale, soprattutto ecco nelle aziende di famiglia. Un ragazzo su tre appunto dà una mano ai genitori, appunto, e quindi aiuta a facilitare l'economia. E anche un po', io penso, a motivarle sia anche un po' la voglia di fare esperienza, di essere un pochino più indipendenti. Sì, assolutamente, ecco, nonostante le retribuzioni non siano ecco proprio all'altezza ecco di quelle ecco dei loro colleghi più grandi, effettivamente la motivazione principale per la quale si approcciano i ragazzi al lavoro estivo è sia appunto quella di guadagnare un po' di euro appunto per essere più indipendenti, ma anche fare esperienza. Ecco, in questo senso è molto importante recepire l'esigenza dei ragazzi di inserirsi nel mondo del lavoro. Ecco, questa proposta di Poletti, sebbene inizialmente ecco sia stata accolta in un modo ecco non molto tranquillo e molto sereno dagli studenti, in realtà poi maturata e digerita risponde ad un'esigenza metabolizzata, dato che oggi abbiamo parlato di metabolismo. Vorrei sentire Paolo che ci chiama da Milano e che saluto e che ringrazio. 800 24 00 24, se volete intervenire anche in questa ultima parte di trasmissione. Benvenuto Paolo. Buongiorno e complimenti, la puntata di oggi è veramente splendida, anche con le insalate mi avete fatto venire appetito. Grazie Paolo. Però la mia esperienza voleva essere quella un po' diversa da quello che un po' stiamo raccontando. La mia famiglia possiede da tanto tempo una concessionaria auto e moto nel sud Italia, in una zona anche abbastanza turistica, quindi per noi l'estate è sempre stato un momento del picco di lavoro. Sì. E io sin da ragazzo ho sempre lavorato in azienda durante il periodo estivo per aiutare la famiglia. Quello che volevo dire è che io adesso ho 50 anni, parlando di 35 anni fa, era abbastanza normale che ci fossero nel periodo estivo delle famiglie che ci conoscevano di persone, noi eravamo un po' il punto di riferimento della zona, che ci chiedevano di far lavorare un po' i loro figli per tenerli un po' distratti, lontani dalla strada, ma anche per fargli guadagnare qualcosa. E quindi durante l'estate c'erano questi ragazzi, andavano dai 13 ai 17 anni grosso modo, quindi il periodo della scuola media o della scuola superiore, che ci davano una mano in estate con i lavori che si possono fare tipicamente in un'officina, quindi non so, la pulizia dei mezzi, l'approntamento, certo, movimentarli, dare una mano in magazzino. Il punto è che sono almeno 20 anni che non viene più nessuno, cioè non abbiamo più nemmeno qualcuno che viene a dirci: ma non è che d'estate potrei lavorare un po' con voi. Per l'azienda è diventato estremamente difficile per tutte le normative di sicurezza, di contrattualistica e così via. Però è veramente un peccato, perché noi abbiamo visto che nel corso degli anni i ragazzi che hanno lavorato con noi hanno fatto tutti un'ottima riuscita nella vita. Addirittura due, uno è il nostro capomeccanico da ormai più di 30 anni, aveva iniziato con questa attività, e un altro ha lavorato con noi per tantissimi anni prima di mettersi in proprio. Quindi si perda qualcosa. Si perde decisamente molto in termini di capacità di affrontare il lavoro, di prendersi delle responsabilità e anche di capire il vero valore del denaro. Grazie Paolo per questa segnalazione, che vogliamo naturalmente condividere con i nostri ascoltatori. E se avete esperienze, avventure, come diciamo io con Deborah, disavventure, 800 24 00 24 per parlarne con noi e con Daniele Grassucci di scuola.net, che è in linea con noi. Il nostro amico Paolo sottolineava un aspetto che è un tasto dolente, che sono, e che è quello dei contratti. Non sempre ci sono degli inquadramenti adeguati, Daniele, è così? Sì, assolutamente sì, gran parte dei ragazzi ecco lavora in nero, 3 su 5 appunto non hanno un contratto, vuoi perché appunto molti, abbiamo visto, lavorano nell'azienda di famiglia o comunque da qualche conoscente, per cui è difficile contrattualizzare, dall'altra perché effettivamente ad oggi c'è un tema del costo del lavoro che sicuramente è importante, per cui ecco, alla fine laddove è possibile, cioè adesso l'unica forma di contratto che si può fare, tenendo conto dell'apprendistato professionalizzante, è un percorso che dura più anni, per cui non è possibile farlo per 3 mesi, è il tempo determinato. Noi sappiamo che il tempo determinato, una volta abolite le collaborazioni a progetto, è la forma di contratto più costosa che esiste. Ecco, bisognerebbe forse lavorare, ecco, per facilitare diciamo il lavoro stagionale dei ragazzi, cioè, ed è anche questo che vuole fare la buona scuola, ecco, cercare di far sì che l'estate possa essere un momento per i ragazzi, per occasioni di lavoro che non siano solo di sfruttamento tra virgolette, ma che siano anche professionalizzanti. Si può fare molto di più sicuramente. Dedichiamo gli ultimi minuti, Daniele, per rivolgerci a quelle famiglie che quest'estate stanno cercando magari l'insegnante per dare ripetizioni al figlio che si è preso qualche materia per settembre. Non è facile e sono anche costose le ripetizioni. Un consiglio di scuola.net? Sicuramente il consiglio è quello di in qualche modo di cercare di lavorare, se si hanno delle persone che si conoscono, attraverso il passaparola, perché il passaparola in qualche modo dà una certa garanzia sull'affidabilità. Però ecco, mi rendo conto che ci sono molte famiglie che non hanno magari conoscenti a cui chiedere, o che hanno avuto questa esperienza, o che pure magari hanno il problema di trovarsi in località di vacanza. In questo senso noi di scuola.net abbiamo creato per loro proprio un servizio di ripetizioni, che possono trovare sul nostro sito, che mette facilmente in contatto i genitori che hanno bisogno appunto di ripetizioni di una certa materia con i tutor, o vicino alla loro casa, al luogo di villeggiatura, oppure quelli che sono disponibili a lavorare online. In questo modo si riesce a scavalcare il problema di conoscere qualcuno che ti può indicare un buon tutor, perché sono tutti controllati. Quindi ecco, due soluzioni: o il classico metodo del passaparola, oppure la soluzione tecnologica online. Tu hai mai avuto qualche materia, Daniele? Guarda, io purtroppo, come si vede anche sul mio profilo del sito, ero un po' secchione, per cui non ho mai. E hai fatto dei lavoretti estivi? Assolutamente sì, in realtà ad esempio d'estate mi dilettavo appunto a dare magari ripetizioni ai ragazzi che stavano in difficoltà, soprattutto negli anni dell'università. Questo è un modo con cui, diciamo, molti ragazzi si guadagnano da vivere. Poi come non ricordare le esperienze da animatore, ecco, soprattutto ecco, nei campi estivi con i ragazzi, ecco, anche queste sono delle cose. Vedi che belle quelle estati, Daniele, intanto sì, perché... Daniele, buona estate anche a te. Grazie Daniele Grassucci di scuola.net per essere stato con noi, auguriamo anche lui buone vacanze. E noi torniamo domani sempre alle 11:00, Andrea Roccabelli in regia la parte tecnica, Isotta Scenna in redazione, e ringraziamo naturalmente le ragazze del Centralino. A domani.